e poi per gente che dice ah, ma io non ci ripetite, vabbè, fammi dei piatti, gioca di quella bicicletta, di quella pallone, va che lui vuoi, però la radio è sempre radio, dai. Ma poi magari non conosci i popoli, giovanotti da là, non so neanche cosa è. No, no, no, ma non piazza nessuno, no, assolutamente no, assolutamente no. Prima erano i più attaccati, mi che cose, mi diventi che la curia, ma metto, però non sappiamo come ti va a attaccarla, non vuriani a punire l'antenna in andare a casa, no, non vuriani l'antenna in macchina, chi non vuriani bucarsi la, cioè, tante cose, no. Invece se tu avanti non un giovane, gli dici, a tribuno per l'attino, oh, ma così vuol dire a balla, oh, i, uno su mille ne nasce forse, che si rubai di ribiazze, ma boh, non so se noi siamo gli ultimi in queste cose. A me ti devo dire che mi è sempre piaciuta, no, no. A me piace la radio, dai, cioè se tu la vedi pure, se tu, io vado a dire, la voce sono andata da Iele, no, Iele elettronica, e via, sono pure rimasto 2 ore incantata a vedere, mi ripetono ieri e radio, che è eso, che a parte che la via tutti i baracchini, la via tutti i canti rimaneri, di cosa vedi in giro? E te ne fai la bava nella serie, no? Perché sono cose belle, ti piacciono, giustamente. Ma poi dammi vedere la rossa di cose, lineari, di antenni, microfoni, di tutto, di tutto, tu entra un negozio, di tutto. E sotto lo scantinato le riparavano loro. Era una cosa bellissima, bellissima, tutta la tecnica cosa è da morire purtroppo, che va pagando l'inesiane, se tu mandi pure un apparecchio a cosa non viso più assistenzi, e che ha fatto assistenza ai litigosi sotto tanta gente che ha lavorato su radio, sopra la radio professionale, tipo Chemudu, Iaesu o Icom, figanti in ghiri, e poi sono così a contuso, eccetera, ma tutti i canti rasli, tutto quanto usa radio, tutto quanto vinico. Ma quegli anni lì, intorno al 90, ti posso assicurare che andati era pieno, ed era una cosa che ti riparava la lava, vedi tutti i canti che si apparecchiatori, cavolo, e poi erano in competizione di casi, no, tra di eti, magari quasi a pazzo, uno più bello dell'altro, uno spettacolo. Mancando la tecnica, chi c'è computer, chi c'è applicazione che hanno in busto, cioè chi si sono rendendo tutto, sono rendendo, no, non vedo più la tecnica, non vedo più tecnici, non vedo più niente che sa fa nuda, è un macello, cioè quando uno va parecchio, è una cosa bella, una cosa... C'è qualcosa di divisa per fare BL, impari a saldare, impari, c'è tante cose impari, a piazzare tutto, a piazzare un capo, impari a ghiaccio, impari a ghiaccio, ma va, a tenere un computer tutto fatto, ma che ha pesci così, ma cosa hai imparato tu? Siamo fuori, diciamo. No, guarda, a capire bene il discorso della radio è una cosa un bel complicata, è bella che non è una cosa facile, io purtroppo avevo degli amici bravi che sapevano fare queste cose, guarda, ti dico una, noi abbiamo un amico che sta ad uno dei primi, no, che fosse Dorra, buonanima, e gli davi un baracchino, perché allora il baracchino mi sembra che erano 23 canali e lei ti rivolgeva forse 120, forse 120 canali, e lui quando travagliato a ricomenzare la televisione mi pare che erano a 2 canali e lei rivolgeva più canali, Radio del Golfo e Nogga la via si chiama da Edo, così, quindi Zabia va. Una di le Nogga in un attimo ha applicato un'antenna a Zabia, tanti ghiri bisognava farli, tanta cosa bisognava farli, e lui Zabia tutti canti, le cose le Zabia a memoria, sono cose belle, cazzo, la gente porta a vedere, trovano capelli, ma ti piace giustamente, e non non so buva, assolutamente. Non è che dico io puro mi bongo, no, io una cosa con un pareggio la lascio fare a chi la sa fare, perché bisogna avere anche il rispetto di queste cose qua. E lui ti dico io. E no, per... ma buon'anima di Giuseppe, non ce n'era, non ce n'era, te lo posso assicurare. L'antenna del VHF non sa che la porta, ha pigliato che fino stilo, l'ha arricciato, l'ho fatto, ha fatto l'antenna e non veniva nessuno. Sapeva qualche cosa. Bravo veramente. Ma vedi, è canto con i soldati di chi sono i dennici, che sono nati i dennici a vero. Ma in che sanno i buricori che imparava la gente, ma imparavano i burubei a qualche cosa. Ma che si macchia di Gardena, quello sono in parente. Cioè, non sono più in parente nulla. No, veramente qua. L'unica cosa che sa ne va, arricciarsi un cannone, cazzo, manda un messaggio al telefono a bomba, lei ci deve usare, vabbè, che io rivedo questi bizzino, se fa telefono in mano, pa, senti questi cosi, ma se tu arrivi a costruire una bicicletta o costruire un carruzzo, non lo sai, va, no, ci mancherebbe. Rivedo questi bizzini qua, se fa vedono di da guascio, cioè, ma io fare... con tutti i canti che ci sono, ci di da Marco, cioè, ma boh, sarò io boh, di un'altra epoca, ma cosa vuoi che ti dica? Non lo so, veramente. Io so che c'è una cosa, che se avevo se mi vedo l'abbiamo fatto la colazione, l'abbiamo bucato i denti. Perché non può essere. No, io qua ti posso assicurare che... A me mi piace sta sempre a fare, purtroppo non c'è un tempo e alla fine si manca pure la gana per fare un insieme di tante cose, però ti posso assicurare che su tante cose mi piace appintarmi, insomma, dai. Anche il discorso della radio, ma tu lo sai che la prima radio che mi ci costruivo era un... Era un 23 canali, un momento basso, porca miseria, forse era un toccai, era sai non me la marca che era, allora sai quanti mi ha giocato l'antenna, devo dire la verità, ho fatto tutti i canti, va bene, è una cosa mia, pure provare questa cosa, ho preso, mi avevo fatto un dipolo con lo... col filo della televisione, sempre la televisione, tu cazzo di non mi ha dato col filo questa cosa, e me l'ho fatto io, non è che mani zitto, commenti, cando, come, perché, ma ci prendevi questa cosa, ci provate a far vedere, cazzo, se funzionava, tu cazzo, cosa dite, però senza comprendere che questa cosa bruciava i finali, eccetera, no, ma mi ha dato qui un colpo di così, no, cioè, poi mi sono giustamente documentato da Carusabia, e piano piano lì poi ho provato tante antenne, tante cose e niente, poi vi ho buttato la mano per la mano per rimasta, però per dirti no, da dove sei iniziato, ti sei arrangiato, ti sei fatto andare a GBC comparavo le gappo, se li provavo durante il microfono, le bavine, capo di andare bene, capo di andare male e accorti tante cose, poi lo sai come te, perché te la dite in un modo e te la dite in un altro, fin tanto che poi riesci, no? Oggi se lo devo fare lo so fare, punto e basta, ecco. Però all'inizio diventa pure un problema. E quindi mi sono appintato, no? Nel raccontare qualche volta gli indizini di ma poi cosa non provedi, pure fai scittini dallo solito trandraghi, vedi, a chiedere i ragazzi che si sono annuiendi, ma te ne già devo capire in tante cose, no? In cose nuove, cose belle, niente da fare, nulla. Secondo me deve avere nei cazzo una cosa manna e inutili questa cosa, invece io no, io a me è sempre piaciuto. Beh, anche fare un gabbo che non le funziona, beh, io oggi ho compreso una cosa, che non ha mai educato del spogliatore, ho compreso che, cioè, qualche cosa ce l'ha fatta, mi sono commosso e ho compreso che un gabbo non funziona, che non passia, ha detto, strano, però la benzina la aspira e cosa, l'ho dimontato e mi sono capitato che un coso non dava il gettito alla benzina, compreso, allora cosa ha giovato? Ma assicurarmi, che ingrippato non è ingrippato, che la compressione va e tutto. Si aggiunge un pocaretto di benzina, 30 un cilindro, e cuto due cose, però è un in moto. Vabbè, la cosa è sudato, a chi non avrebbe alimentazione. Antonio, sei precisissimo, tu togli il carburatore, ascolta me, togli il carburatore, molla quelle quattro viti, ti compri le membrane, poni le membrane in ora, che le membrane praticamente hanno una sorta di pompacino. Ma comprendisti, ecco. Metti le membrane nuove, poni le membrane nuove, perché se no pompa, se tu ribolli un poco di benzina e passi dall'aspirazione, se ne viene che inchiude le membrane non pompano. Noi arriva benzina e si spegne lui. Togli il carburatore, lo pulisci, lo apri, compri le membrane, cuociano in buono a vesseria, le pigli, le buone membrane nuove, prova a tapparlo, lo muovi in moto e ti funziona bene. Ma come ti mai io quando tiro la benzina arrivi, però non farsi fare da rugoso, cioè praticamente non spruzzano che i buonore, o sono i membrane. Sì, a metà di una cosa, l'unice spugliatore, qualsiasi marca, va sempre svuotato, e consuma la benzina che vede dentro, vecchio da secco. Poi quando le buone la benzina, sempre bella, fresca, non puni benzina variata che fai da un mese, da due mesi, non fa mai che si arroda, ti si ingrippa. La benzina va sempre fatta fresca al momento, e dentro funziona tranquillamente. Quando a te non ti funziona, è pagosa, di membrane si sono incullati, vuol dire che gli spiratori da troppo tempo vengono con benzina dentro. Io lo pulia sempre in moto, compreso. Lasciava bocca di benzina. Però lo pulia in moto, ogni mese lo pulia in moto io, cioè, anche di meno di un mese. Non ho già compreso una cosa. Allora provo a comprare la membrana, ma io faccio l'impressione che si senta già da che cosa dentro. No, Antu, quello che lo fa partire è quello. Ma allora, dentro lo serbatoio, se tu vedi che è un filtrino, no? Di gamma Cairo lo coso, dei spugliatori. Vabbè, comunque, dentro lo serbatoio, va un gomino niente, non entra niente di più, perché viene uno di mandato e uno di recupero. Staccalo, e ne vuoi 30 kg con un filtrino. Un filtrino lo giambi, si è brutto, se no annetti lo serbatoio. Lui che ti non annetti, se fai il compressore, se vuoi buffare, e te lo approva, ciamba i membrani, devi funzionare. A te non ti funziona, se no a te non può fare benzina. Però che la benzina la bomba. No, non mai compreso, no. Tu la bombi con un cicchetto, ma io tu la bombi con i carburatori, non pompa. E allora bisogna ciambavire. Quando un demariane io ando per il compareggio. Ha capito, quando il carburatore praticamente ha una sorta di pompa C, non so così te la metti come ti continuavano le macchine di prima carburatore, no? Vani la pompa C, che è vero che allora, la pompa C serve a aspirare, no? Aspira lo serbatoio e manda lo carburatore. Oggi bisogna le pompe elettrici, anche da voi era andato un monopoint, ha basso multipoint, però sempre pompa devi avere, anche se no non ho pace, manco bassoni, basi, oi, se non per benzina. Invece il ghiaccio spugliatore e la motosega vanno che si chiama di così, a membrana, praticamente tu ribombi la benzina, salvi l'aria, e lui questa membrana qua, come si muove, fa la pompa C, e gli pompa la benzina dentro, quando questa qua si blocca, e non lo pompa più. Capo, a chi sono degradato mi ha domandato un meccanico, bene, 40 euro di racconto di Giaro Giammarano, e lo devo usare a posto, mi dimonteggio un carburatore, quando ne mariani mi piglio le membrane nuove. Sì, beh, che non quasi va a travaglio, che non sa bene cosa ti fa, niente, sì, che cosa sa bene. là per i buoni membrani si viaggia, se tu vai un pochino di passione ma anche cose te lo fai tu, quindi l'apri, ti ripeto, sono quattro viti in ghibi di lato, l'apri, poni i membrani, poi educano dei lati, li ripeti come si soffuci, tu uguale la marca del carburatore devi portare, perché qui dalla marca ci può essere una diversità della membrana. Ammettate una cosa, quando un apri i viti, i quattro viti che vai in ghibi, mentre lo dappo che i curatori, ammettati come ti ne ruoghi dei buoni, se no non ti pompa, capito? Dei buoni uguale. Se per caso non riesci, tu quando rapri, ammettati una cosa, fatti una foto, cioè carupati per me che non ha bisogno, però tu che non hai, tu che non è travaglio tu, tu quando muori di quattro viti, apri e gli fai una foto, poi sacchi le membrane e gli fai un'altra foto, quando buoni le membrane non imbagli, non imbagli e vai tranquillo che la più funziona. Cosa ha fatto? Per i 420 sono uguali, i 420, da voi mi sono due che tenne nero, il curatore e basta, sono precisi. No, i video dei visori membrani sono quattro, capito? Dove tu togli la membrana sono quattro viti. Allora, tu stacchi il carburatore, bucani un vizio, bucani un carburatore a fuori, muore di 4 viti che fa, quando muore di 4 viti sono te che bisogna di membrane. Sì, ne aggiungiamo un cante, aggiungiamo il dado. Ma sicuramente chissà che non è pompente me. Sono un carburatore, rimborso e mi date di chissà in cose sicuramente. Anche comprare un carburatore nuovo sicuramente costa un bel. No, per il carburatore goccia, beh, ti posso assicurare, se tu compari su carburatori, aggiungi 20 euro e ti ci no, tranquillo. Davvero? Ma non convene, non dici spogliatore, canta a mano che tu dici spogliatore. Lo dici da 26, Come ti dico? Dove ti dico? Di gamma è? Generico. No, di gamma è, cosa avevi scritto sopra? Non è un... L'avevi abbigliato 8 anni fa da Brico, ma ha sempre funzionato per me. Tu fatti un conto che oggi con 25 bussava prima da sé, tutto canto, che c'è un casino, mi sono convenendo che c'è bastardi di merda, che hanno aumentato tutto, bussava una vesseria, qua 25 era quello più a buon prezzo che c'era, perché poi c'era il 30, il 35, il 45, che sono già una macchina professionale, ma lo 25 costa nulla, te lo posso assicurare che si costavano in giabitura. Poi mi aveva pagato 80 euro. Sì. Oggi abbiamo un carburatore che si costa 40 euro. È un gioco io. Ma io bro faccio un male che si membrane, quella che già passi da voi. E sicuramente non hanno continuità. Esatto, perché le membrane prima gustavano il zincuino, poi erano metà da tesi, allora non ne so qualche, io da un vecchio non li vengo, con tutto quanto che c'è un casino che vè, chissà come ti. Però non costano bene, assolutamente no. Ne vuoi quello che il curatore per un po' a Mariani, per lo vedere, ti dà le membrane, o alla fine mi tipo di più. Se ne vuoi quello che il curatore lì, me le chiudi, me le tu, ti ripari il sarra 30, ti metto che il curatore si andate. Ho trovato direttamente Edo. Ma si vivo due minuti a Brillo, pagare un zaffare e una ciabitura. Ho capito. Ma ti fate pagare di più? Non mi hai compreso. Poni, ti porto un'ipotesi. Poni che ti dai 10 euro, un'ipotesi, no? Ti vado a vedere 10 euro e te li piazzo io. Se tu non lo devi fare, se lo devi fare, ok. Però se lo devi, dammi 10 euro che ti ripiazzo io, finirai. E tu andi a questo tranquillo, capito? Ti rubi, rubiassi, ti metti le due viti, lo blocchi e si funzionete. A chi l'ha già chiamato un filtrino, l'ha già chiamato un dubicino. Non è possibile, no? Cioè, alla fine oggi ti ha già costato un poco di benzina, 30 rubicioni. Conduire poi molto subito. Ecco, lì ti sta dicendo che le membrane non funzionano. Allora, diciamo chi si è del passello. Allora, tu una volta che le buone chi si è sentito arrabbiacente. se ti pare un piccione, aspettina, vabbè, il giambo. Purtroppo so, allora prima, non andare in macchine vecchi, non riguarda nessun problema, nessuna cosa. I vecchi oggi, chi ti dice spogliatori nuovi, sono tutti così. Quando tu laghi un po' di benzina, o poi di benzina brutta, oppure un laghi la benzina 30, ma un periodo si incasineggia e non v'è niente da fare. Un danno grosso l'aveva combinato la benzina vecchia, quando viene la benzina ruia, mai problemi, tu non mi ubbidiasci qui a terra, mai. La giudizio di queste cose, mai. La candidatura della vecchia purtroppo era un casino. Come te la cassa, la vedi la vecchia, la vedi del serbatoio, dilata le membrane, boh, non da più. Chissà chi non mi dice la teoria ecologica, brutto bastardo, cazzo, maledetto, cazzo, Gianni Biliato Baruguru, e sto continuando a piazza Baruguru, come ti vuoi? Ma, dici, da molti pure che travagliavano le fornitori, dici che chi c'ha la benzina super, dici cazzo che era mondiale, andavano i pari davvero le macchine. Ma stiamo scherzando, ma da paura che c'è benzina vecchia, ma che non se ne andano a fanculo, e delle bocche sronzate, oggi se tu hai costi, ma dici, no, gli ho messo l'additivo e cosa, ma perché gli devi mettere l'additivo? La benzina veniva venduta, cazzo, perché c'aveva 90% di ottano, 98% di ottano, e invece avassi, vuoi camminare un poco, vedi i benzini speciali, vedi l'odice speciale, che da qui Ravini, quanti ne danno, no, e non veniva niente da fare. Dici, no, io altro che noi, non vuoi vedere motori che abitati a causa di queste cose miserabili, non è fatto un poco di casino, ma lascia le cose come si trova. Dici, allora tu tieni presente che la benzina ruia, ti lavassi di mani, lavassi di bestie, ti lavassi ottoria, ma la moglie la benzina, niente, nulla. La benzina verde, quando è uscita, te ne mangiava la polpa dalle mani. Ti lo posso assicurare, io, l'ho già fatto vedere a tutti, te ne mangia i calli, tutto te ne mangia. Cazzo, come un lato ecologico, e che cosa te ne mangia la poi? Però vedi la cosa. Per carità, se avremmo lo biombo che inquina, hai fatto più casino che altro. Ma non è manco più benzina vecchia, ma è gialla. Sì, a chi non sa, gli ama non sa ne più a capaci così, non sa ne più come ti biglietti barugu, insomma, la vini, vedi? Sì, non so via. Roma e sapere benzina vecchia era uscena. Ma così hanno fatto battuto, anche pure un caso delle macchine, un caso delle macchine, vega la netto, vega la brutto, perché ad un periodo, cazzo, in questo caso non voglia vita, e gli diziani di no, e io dico di sì, anche tu quando arrivi la macchina magnassi, addirittura si mangiava i guidi di valvoli, pure avventuramente si mangiava i guidi di valvoli, si dei valvoli, un casino che era un periodo che ha tutto quanto un disastro, e il caso continuava a imbrattare un bormone, no? Che va, cazzo, un casino, ma, e dice, ma è tutto un disastro, un casino, ma che cazzo siamo come meglio? Ah va, in linea di massima, lo caso pure in altre macchine funzionava, ma pure qui a casa rispetto a prima, non incatra, non va tutto altro che tu cattravo, insomma, dai. Non so, Guglia, e a chi lo so raffinendo più bello, a chi arrivi soprattutto su Dorra, arrivi la cosa, la buccangasso per la buono, arrivi il propano, arrivi, quindi non ti hai più problemi, manco mare, è come te lo blu diesel, cioè se tratti chi su la macchina tira volte e non ti hai più problemi, perché noi siamo trattando di barlofare, ha avuto qualche problema, ma mi ha trovato un casinato, un serbatoio. Beh, se mi andate in divisa la macchina c'ha modo, non date più problemi, è perfetta. Che macchina tratti tu? La strada. Beh, io dico una cosa, occhio a rubro diesel e a chi si fa i danno è un problema. Lo sai cosa devi fare? Io dico cosa devi fare. Una volta al mese, studioso di Michele a due tempi, pone dentro un mezzo litro d'osso, se proprio vuoi andare in bagno e vuoi pure un quascio, tu vuoi fare, lo vuoi pigliare da un litro, dai, da un litro, e glielo dividi in quattro. Cioè praticamente per buoni oggi, poi passa tre mesi, quattro mesi e poi potrò rapunire e poi potrò rapunire. A chi lungo chi su gasolio di inghivi, essendo troppo asciutto, arruineggia sia la pompa che il iniettore, e la lì chi ti blocca da voi è un problema, capito? Va lubrificata la pompa e non c'è un cazzo da fare, poi le vuole, lui vuole. Ammettati che cosa ti so qui dicendo. Ricordi, olio di miscela a due tempi. Sì, io sono guidato che ti ricordi uno, un poco. Ma dite che questo nuovo però è diverso ancora. Lo primo crescito incasinava le macchine, da voi si sono lamentati dal giambato. Lamentate, i danni facciato le macchine. Oia, oia, oia, cadente le chiva a consagli. Oia, non ti goscia, la macchina ti goscia questa. Sì, ma dice che l'hanno cambiato perché si stavano lamentando tutti, a voi esci dove c'ho tech e andrà meglio. Sì, ma tu fanno imbagliare, è troppo asciutto, il gasolio di la sei gasolio, è troppo asciutto, tu farò farsi un errore, gli devi mettere per forza olio di miscelamento. Sì, non male mi tricolo un po', va. Cioè, sevi a tutte le altre due, capito? Tu quando buoni che sono obbedienti che andano a pulire il blu diesel, e ti dicono, ah io ci pulire il blu diesel e chiedo a me, ma sei sicuro tu? Hai incumulato un casino, mi mando di te. E quando ti fai un errore, che te lo compite in chiedi, la musica guida, perché si rovina, un po' pegnatore di inchioda, non un cazzo da fare, perché gli aumenta gli attriti. Invece con l'olio non succede quella roba lì e vai più alle lunghe. Invece passarsi oggi bisogna fare faccia praticare, insomma, no? Capa. Dico una cosa, guarda che non siamo trovati in diviso. Cazzo, la macchina viaggia un bel viaggio. No, ma su quello non c'è storia. Cioè, no, sul mezzo, vedete su quei denti, occhio, chi la di chi ti abbandona. È un problema. Io vado domani se ne fumo un poco. Tu ammettati, pure se pigli chi dobbiamo un prezzo che vende, chi do più barato che vende. Pigli un'andazza di plastica prima del rifornì, lampada di nutrienti e poi rifornisci. Vai tranquillo. Bisogna fare così. Sempre per evitare problemi e danni. A chi da voi una voce che vi sono i problemi e i danni, si appiedi, va a fanculo il lavoro, eccetera, eccetera. Si fa sempre per evitare. Qualcosa. Eppure di denigre che ce l'hanno modificato, non è più visto di prima. È di denigre da voi. Tanto c'è il pro e il contro. Capito, a noi si pigliano il barbuto come ti vuole, ti trovo si assicura. Io rivecco le cose, no? Quando vedi voi si dicono invece è meglio questo è peggio, questo è ecologico, questo no. Lo vedi poi, no? Quando le cose le smonti, lo vedi e devi capire cosa gli è successo. E purtroppo è così. Eddie non te la parla mai a D, tu ti fai un vaccino, non te la parla mai a D, ti parla a D, ti parla me, ma che non ti parla mai. Invece non è così, ma è la verità, e poi tocca a me vedere o decidere da farsi. Invece è così, noi andiamo al distributore, giustamente tipo, dice un po' e ci mancherebbe altro che ti non andava bene. E poi funzionano benissimo. Però io ti posso assicurare che prima o poi che un problema è anche così. Sono fatti apposta questi cosi. Domani ti lui dazzi in idoso e ti andava da voi. Sì, lo proteggi, mi capito, lo proteggi e vai rimane così cattivo da voi. Tutti in ghivi. Si guarda malissimo, proteggito. Infatti di che prima lo gasolio era più troppo. Allora, lo gasolio metti 50 anni fa, no? 50 anni fa tu pulisci tanta roba, ti riparava in terra, va via un fiago, ti mangiava la roba e la terra non scia, perché era molto oleoso, molto denso, non scia. O oggi un po' di gasolio è nata la roba che ti ne vai in terra da meno faccio e esci il tuo e non vedi più nulla. Ma comprendete di cosa stiamo vedendo, no? C'è un badum bene. Infatti ieri alla buia la televisione quando tu intendi lo ministro in giro ecologico o questo e quell'altro tutto bastardo di merda, cazzo. Non sai che parte male questa cosa? Cosa cazzo si intende? E non ti cazzati, ti sei un cazzati, tu con chi ti lavavi le mani, la faccia tu la faccia, non si sia nulla. Oggi ti lavavi la faccia con viso, cazzo ti dici, ti dici la mezza ti dici. Magari faceva più fiago burro prima. Non lo so, però ti dici che 40 anni fa che era proprio croco, gasolio davvero. Ma perché i mattoni erano diversi, tipo che si agricolo, c'è chi su che tratta il barro riscaldamento che vende lì. Che vuoi del destone? Sì, sì, sì, no, l'agricolo è uguale ormai a visto che si tratta di quali vetture. E di giambani rugolanti, ma ti posso assicurare che sul gasolio è buono, te lo posso assicurare, è buonissimo. Il gasolio è quello di trazione, è tipo navi, rivoltiatore, eccetera, roba grossa di così. No, a chi è brutto sul gasolio è pure un'altra cosa, è mondetta, o è bello così. Ma visto che ormai trattiamo noi di così di massima è più pulito, cioè va bene tutto, sia uno che l'altro. Quando il gasolio agricolo prima non trattava neanche gli indiani che imbruttava le bombe, l'iniettore, le cose. Che ha brutte palle, non sai che è un problema. Il problema è che il gasolio è brutto, tutto pieno di melma, era pieno di melma, leva, eccetera. E la gente quando lo regalavano un bidone di cose, se ci raccavano il trento e se ti devo cancellare, ti dicono, ah, mi dici che tengo sul gasolio agricolo, assolutamente no. Te lo posso assicurare, se ti ne posso da prova, noi compriamo un gasolio agricolo e uno da distributori e li puniamo vicino, sono uguali, eh. È cosa di Marco, ma cosa hai fatto? Ma l'agricoltura, ma la buia è diversa, magari già marugurore. Sì, no, no, no, ricordate giambari, chi sono una cosa che hanno sempre fatto, affinché uno non ne faccia uso di chi, insomma, ma no a chi non ne faccia uso, a chi costava di Marco, capito? Vedi che anche tu da Tricolia nero gozo, nero, come ti dici? La macchina soia, il gasolio pesante viene usato nell'imbarcazione, quando sono in alta mare, compreso, non manco in porto, sennò fa un casino niente. Sì, no, beh, che cosa si è preso il chitima, figura. Perché io ho visto un documentario della Sardegna Ferries. Diceva che in porto usava un altro tipo di gasolio, invece quando uscivano fuori allora trattavano il gasolio pesante per le navi, ma lì ci bruciano il tutto. No, ci mancherebbe altro, il cavolo è tutta un'altra cosa da che trattiamo noi, dove fuori. Ha tutta una procedura, mi veniva le varie cattive, che è un discorso troppo lungo, ha tutta un'altra procedura, assolutamente no. Però è brutto, chi si sopra chi su lo seguisce. Vabbè, tanto una cosa erano idratati, andava, costava due voci di manco. Oh, fai di questa già abitura. Proprio in poco della serie. Noi lo paghiamo un euro e lo paghiamo 30 centesimi, fa comprendersi me. Sì, beh. E se no non li conviene viaggiare. Chi su sicuramente costa una miseria proprio. Loro le bruciano le navi, le bruciano pure il rimorchiatore, le bruciano questa cosa, oia. Quindi per motori brucia, e non vuoi niente da fare, non ti viene cazzati, ma ne brucia a rotta di collo, sia ruspe, scavature, roba grossa, dove sono le cave, le cose così, chiedi oia, cosa brucia di gasolio. Non so se usano cosa si tratta di casuale normale, non so come se sia agricolo, ma non penso. Ma e chi penso che per arreghi anni è di testoni e altri? Direttamente. Non so, andare a pigliarlo con un camion della ditta magari, si forniscono da loro. No, perché loro giustamente dicono, no, anche quelli di Caldaia, no, che si tanti gosi, quindi non è la stessa cosa, perché è uguale, no, non è così. Poi chi si ne dica, gli studenti dicono no, ma vedi che è uguale ormai lo gasolio che pone le macchine e quello che pone la gallina, ecco, non è così, è più brutto, vedo, li brucia di più, lo brucia in altro modo, eccetera, non è che anda pagando un po' in tasa una bomba o un ugello, non è mai come c'è una macchina, capito, le macchine oggi sta centralina, cosa, iniezioni elettroniche, se non c'hai una cosa pulita va in palla ed è un casino. Sì, già è vero, già, mi fa ragione, perché è così, cioè no, da buon fiago che fa questo così per le caldaie a gas, nel momento che non andava ancora, che andava arriviava via un fiago, mamma mia, scaricava il camion direttamente. E poi dopo le caldaie, perché fatto una cosa di gemmi, fa bruciare, cosa? E lui passa la roba così, passa. E così era Lugano, io mi ammetto che c'è stato un periodo che cadeva brutto, quasi in forretti niente, dai. Era così fa tutto, oggi no, oggi tra l'altro propano ed è bellissimo, però intasava sciuffi, intasava furreti e faceva un casino, li badeggi soprattutto, non faceva niente. E dopo che non c'è un papà e nella cucina, la cavane, chi si dirò metano, che ti trattava il gas strano ancora di più. Casi in areto ti combinava, e tuttora è così. Arrivati a delle cose un po' più raffinate, vabbè, che tutto ha ciambato un po', dai, sopravvissuto un po' in meglio, ma mi sono stati degli anni, cavolo, io ammetto che a niente lamentavo un vecchio, quattro soprattutto ristoranti, tutti gli altri badigli, niente, bili, che cazzo, ed è di disegno, che qui ha ciambato Luciano, no, proprio era un gas brutto, lo si con cavolo. Eppure un ristorante c'è per un propano si trattava, No, tant'anni fa non esiste nemmeno il propano, te lo posso assicurare, non esiste nemmeno, uscito da voi. Il propano tant'anni fa può essere uscito, boh, non lo so, forse 40 anni fa, più o meno, dai. Di più. Ma il propano, ma non lo trattava nessuno, tutti gli altri trattavano il butano. Il ristorante di Gosi, io la giudice, vicchi proprio, non è a dire che andrò di loro, io tra di loro stavo dentro lì al ristorante e cose, li badetti e vorrei di niente pidichi, non vorrei niente da qua, proprio brillante, la fiamma invece la si è bella, come te la vedeva, la vecchia è ruia, attaccata a casa tutta incasinata era, perché il caso non era pulito. Sicuramente in 10 anni magari, ma non ha... Non si può trattare, papà, cosa se non ti dirà manco la cucina, avevo una detta versione, duro, ma che guido è più forte? Poi, quando esci tu lì su, il propano da voi non para cucina, che para cucina si trattava il buttano, il propano esce tu vai ciuffa. Esce tu vai ciuffa, fare si scalda bagni, a caso lui aveva il forza propano, se no si incasina tutto quanto. Però più che altro va di ciuffa. E effettivamente se tu punisci lo buttano, si incasinava di ciuffa e non ti dà nessuna garanzia, e dovete punire per forza lo propano, ma di voi o non si accattava, o lo avviene finito, o una cosa o l'altra, insomma, punisci l'altro ed era un problema da buttare. Invece poi con l'andare degli anni si è migliorato sia uno che l'altro. Vera la miscela, tutta la vera miscela, specializzata, ma è molto pulita a confronto. Che differenza vera va dal rubropano allo butano di dinamico? Vedo la differenza? Un euro lo paghiamo di più. Vabbè, più che altro facciamo delle miscela. Lo buttano, no, non c'è più fendi, qualcosa, di biglie che ci vuole le più minore, più basse, però più vero, che ci trattavano i barbecuni, le cose, ma però sto buttando miscela e propano, che è meglio. Ma dico più o meno che differenza c'è da uno all'altro? Ma un euro a bomba in più. Quindi nulla, dai. Io ho buttato sempre a fare un propano, la verità, ho buttato sempre bagliso a chi da tanto è riuscito, ha detto qua secondo me come di più c'era più netto, non dati a problemi, non tasavano così, e sono più pagato il puro che costi a 2 euro, più non è un problema. Ma pure un po' rubare cose, fare macchine, un amico mio pure indichisse la macchina ha avuto più problemi, non si è tasato più nulla, non si è teso più niente. Esatto, più netto. Niente da pagliso, purtroppo è così. Beh, io Antonella, ti faccio un sonno terribile. Buonanotte, ti saluto, mi ha fatto piacere questa chiacchierata, sono contento. Ehi, ciao Anto, ma figurati, sono più contento io di te anche di Luca. Non c'è problema, io quando ho 10 minuti mi fa sempre piacere ascoltarvi, figurati tu. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, allora proviamo, se capite già, siccome ti vado una seconda occasione, proviamo in Kiwi. Sì, tranquillo, io quando sono così punibili, chiama, che non c'è nessun problema. Ciao, Antone. Yeah, di nuovo, dai, ciao, buonanotte. Ciucu, ciucu, ciucu, ciucu, ciucu.